Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, si parla tanto in questa crisi economica che stiamo attraversando e di cui non sappiamo quali potranno essere le conclusioni, si parla tanto, dicevo, di far ripartire i consumi, la domanda, in modo che si possa rimettere in moto l'economia. Eppure ci sono stati dei periodi nella storia in cui l'eccesso di consumi era guardato con molto sospetto, anzi si cercava di contrastare questo abuso dei consumi, l'ostentazione dei beni voluttuari, per ragioni economiche ma anche per motivazioni sociali e morali, e anche di questo parla il libro di una docente di storia medievale, storia e patrimonio culturale della moda all'Università di Bologna, Maria Giuseppina Muzzarelli, autrice de Le regole del lusso, apparenze e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna, pubblicato dal Mulino, 276 pagine, 24 euro. Le preoccupazioni sull'eccesso di consumo sono familiari anche a noi, particolarmente preoccupati dell'aspetto, per esempio, relativo alla sostenibilità del pianeta, ma queste preoccupazioni rievocano domande già poste in passato per altre ragioni. Per esempio, dice l'autrice, quali effetti determina nel tempo, se non nell'immediato, la mancanza di misura, la soddisfazione egoistica e senza limiti dei desideri di singoli o di gruppi privilegiati? Si può impunemente appagare il proprio desiderio senza alcun contenimento e senza relazionarsi con gli altri? In quali forme è lecito intervenire da parte del publicum sui consumi privati? Sottesa a questi interrogativi, secondo l'autrice, è la coscienza morale e politica dell'opportunità, anzi della necessità di individuare e condividere limiti e misure. A queste domande cercavano di rispondere appunto le cosiddette leggi suntuarie, che volevano contenere o addirittura eliminare il lusso, volevano eliminare gli sprechi, le esibizioni non commisurate a condizione sociale, età, capacità economica, appartenenza religiosa e altro ancora, con le parole della scrittrice. È una storia lunga che l'autrice considera attraverso le centinaia di leggi di questo tipo emanate nei comuni e nei governi italiani dal 200 al 500 e più sporadicamente dal 600 al 700. Leggi interessanti perché ci danno uno specchio fedele e puntuale dei consumi e soprattutto degli accessori per i quali tanti italiani sprecavano delle sostanze anche importanti. Pensiamo per esempio ai banchetti, che facevano molto spesso oggetto dell'attenzione di queste leggi. Queste leggi, dice l'autrice, che portavano alla luce non solo progetti ma anche abitudini, atteggiamenti, usi locali, gusti personali, resistenze alle limitazioni e soluzioni di compromesso individuate per armonizzare regole e comportamenti. E quindi attraverso queste leggi, secondo Muzzarelli, un'intera società si rende leggibile in filigrana. Anzi, queste leggi sono come un abbecedario, un libro dei precetti che ebbe un ruolo, aggiunge, nel formare la coscienza del consumo e che offrì il suo contributo alla governabilità. Il libro è accompagnato da molte testimonianze artistiche che diventano anch'esse la prova di questi gusti e abitudini, e si avvia dal 1276 a Bologna, dove la moglie di un drappiere si ribella alle guardie che le vogliono misurare la lunghezza dello strascico, come previsto peraltro da una legge di qualche anno prima, che era stata la prima di questo genere emanata nell'Italia del Medioevo. Ed ecco come l'autrice ci spiega le motivazioni di questo intervento. Il termine lusso allude a qualcosa che è fuori posto, che sta di traverso, nel senso di lussato, benché le parole lusso e lussato abbiano diversa origine. Squilibrio, eccesso, alterazione. Il lusso fa riferimento a una situazione da riportare a opportuna collocazione e a giusta misura. Se vi è implicita l'idea di disordine e indirettamente di ingiustizia, ne deriva l'opportunità, se non la necessità, del suo disciplinamento per restaurare o instaurare ordine e armonia, per limitare ostentazioni e sprechi che possono diventare un problema sociale e politico, oltre che costituire comportamenti riprovevoli sul piano morale, con conseguenze su quello economico. Il lusso, continua l'autrice, supera un limite fissato, evoca vizio, peccato, come peraltro attesta anche la parola inglese che designa il fenomeno luxury, che rimanda a uno dei sette peccati capitali, la cui virtù opposta è la temperanza. finanza. E il lusso alimenta quello che oggi chiameremmo consumo di massa, come ci spiega sempre Muzzarelli in queste righe. Ogni nuovo sfoggio di oggetti o di stili improntati al lusso dà luogo a un potente effetto scia nel campo comportamentale e soprattutto produttivo, così che gli oggetti ostentati, copiati dall'originale, in qualche modo vampirizzando la ricerca o l'ideazione di chi li ha concepiti, vengono riprodotti a basso costo in serie. Ciò popolarizza il bene desiderato, rendendolo alla portata di molti. Il lusso popolare è una vera e propria contraddizione in termini. Non si tratta di un fenomeno che caratterizza solo i nostri tempi. Nel Medioevo, ad esempio, chi non poteva permettersi i fili d'oro, ed erano moltissimi, aspirava come minimo a esibire stoffe che parevano dorate in quanto intessute da fili trattati con lo zafferano. Si sfoggiavano non solo i gioielli veri, ma anche quelli falsi che a loro volta erano regolamentati. Bisognava poi vedere se tanto i fili tinti con lo zafferano quanto le pietre false erano commerciati correttamente o spacciati per quello che non erano. Ma questa è altra questione. Dal punto di vista dell'esibizione, l'effetto poteva anche essere lo stesso. Da qui il loro disciplinamento. Addentrandosi nei vari periodi e nelle varie espressioni del lusso, il libro ci offre affascinanti descrizioni delle evoluzioni del gusto, dei consumi, dei rapporti sociali e naturalmente ci descrive le scappatoie e le violazioni di quei divieti, spesso severissimi, che andarono organizzando, si spiega Muzzarelli, quando si fece sempre più solida la consapevolezza del valore e del significato della moda e dunque la cultura della moda. E restiamo allora nel campo della moda, venendo a un passato molto più recente che si riferisce a una delle più note stiliste del dopoguerra che consentì l'esplosione del successo della moda italiana. Parlo di Gigliola Curiel, di cui ci parla il nipote Gaetano Castellini Curiel nel libro Gigliola Curiel, una vita nella moda, pubblicata da Le Lettere, 218 pagine, 16,50 €. Qui si parte dalla Trieste del 1925, dove incontriamo l'ingegner Giulio Curiel, esponente di un'antica famiglia sefardita, scappata dalla Galizia, sempre molto legato all'Italia, pur essendo nato sotto il regime austro-ungarico, con una sorella Ortensia, che è una delle più celebrate sarte di Trieste, capace di sorprendere con le innovazioni e del gusto che le ispiravano i frequenti viaggi a Parigi. La figliola di Giulio, Giuliola, appunto, scoprirà ben presto la sua vocazione, che assume a modello un mito, quella Coco Chanel, di cui queste righe ci spiegano l'influenza. Fu in quei giorni che sentì parlare per la prima volta di Chanel e negli anni successivi, ogni volta che sentiva una storia su di lei, alzava i suoi occhi azzurri sull'interlocutore, avida di dettagli. Ammirava quella donna dallo sguardo penetrante e i capelli neri tagliati corti. Orfana di origini incerte, aveva dato il via a una sua impresa praticamente dal nulla. E ora era diventata la regina della moda, con due negozi in Francia e una vita privata fatta di voci che si rincorrevano per i salotti bene dell'Europa. Qualcuno raccontava della sua storia d'amore con Stravinsky, qualcuno giurava di averla incontrata a una festa, o diceva di averla vista con Picasso e Cocteau, mentre lei, semplice e affascinante, liberava la moda dagli orpelli drappeggiati e dalle chiare piumate. Coco Chanel, proprio in quegli anni, stava per lanciare il suo celebre tubino nero. L'idea di donna di Chanel era una donna dinamica e intraprendente che non poteva essere frenata dai pomposi vestiti eleganti dell'epoca. Gigliola aveva visto quel vestito nero, semplice, su una foto che ritraeva un'attrice di Hollywood in vacanza sulla Costa Azzurra e da allora, sempre più spesso, vestiva le sue modelle spigolose di vestitini neri. La famiglia di Curiel dovrà affrontare gli anni delle persecuzioni razziali, pagherà un prezzo altissimo con la prigionia, il confine e nel 1945 l'uccisione del fratello, l'importante intellettuale ed esponente antifascista Eugenio. Gigliola aveva cominciato a farsi conoscere coi suoi disegni a Milano, agli inizi degli anni 40, presentandosi come straniera, ma incontrando scarso successo, fin quando qualche cliente altolocata comincia a farla lavorare. Nel frattempo si sposa, nasce Raffaella, e poi Gigliola si trasferisce con la figlia a Roma, qui è coinvolta nei mesi drammatici della resistenza fino allo sbarco degli alleati, conosce e lavora con le sorelle Fontana, poi ritorna a Milano, la tragedia di Eugenio, ucciso dalle Brigate Nere, e la ripresa dell'attività con l'apertura del proprio atelier in via Durini 15. Di qui il successo presso le grandi dame milanesi, che amavano tutte, scrive l'autore, il suo modo di consigliare i vestiti, di impegnarsi nel far sentire bella ogni donna, nel sopportare le richieste, trovare sempre la parola giusta per gratificarle, stimolare la loro femminilità. Gigliola, insomma, diventa una protagonista della vita sociale mondana milanese, le sue capacità imprenditoriali sono riconosciute. Alla prima della Scala del 1951 ormai calcola che il numero degli abiti di sua produzione sfoggiato dalle dame milanesi non è certo minore del numero delle altre grandi stiliste dell'epoca come Iole Veneziani o Bichi. Ma Gigliola varcherà l'oceano e conquisterà anche New York, dove la presenteranno come il lascia passare per la moda della nuova donna americana. Lusso, pompa, ostentazione non sono certo lesinate presso la corte britannica, il cui simbolo, la regina Elisabetta, continua a mantenere la sua planetaria popolarità e con loro un nuovo libro su di lei, anzi un dizionario, Elisabetta II dalla A alla Z, della giornalista televisiva Lavinia Orefici, pubblicato da PM, 400 pagine, 18,50 euro. Una donna, Elisabetta, secondo l'autrice, la cui capacità di rimanere sempre uguale a se stessa è stata fonte inesauribile di certezze. In un mondo in continua evoluzione e non sempre in miglioramento, scrive Orefici, Elisabetta ha ancorato schemi, protocolli, soluzioni a un ordine anche non scritto ma chiaro, un faro nella tempesta, una Highlander che sopravvive nella storia. E a proposito di moda, nel dizionario di Orefici non può mancare una voce dedicata all'accessorio forse più popolare indossato dalla regina Elisabetta, cioè il cappello, che così ci viene presentato. Resta un mistero il numero di cappelli che la regina Elisabetta ha indossato nei suoi quasi 70 anni di regno. È certo però che si tratta dell'accessorio più rappresentativo, quello che più la caratterizza. Li porta solo di giorno per le occasioni formali. Così vuole l'etichetta, diventata molto meno rigida rispetto al passato. Fino agli anni 50 per le donne il cappello era un accessorio obbligatorio, poiché era giudicato sconveniente mostrare i capelli in pubblico. In queste prime settimane di post lockdown ci chiediamo tutti se siamo diventati più anarchici o se siamo fin troppo ligi alle regole. Le foto dei luoghi di villeggiatura affollatissimi ci fanno dubitare e appunto ogni tanto ci viene il dubbio se non ci sia una serpeggiante linea di anarchia in tutti noi. Ma l'anarchia in realtà è una cosa seria, come ci dimostra Robert Paul Wolf, filosofo politico americano, che ha scritto In difesa dell'anarchia, 152 pagine, 14 euro, tradotto da Guida Coltigile e Amedeo Bertolo. Questo è un testo che risale al 1970 e che rimette in discussione, anzi demolisce, il mito e il modello della democrazia rappresentativa, che parte dal presupposto che ognuno ha l'ineludibile dovere di essere moralmente autonomo e sviluppa un ragionamento che porta alla conclusione che, come dice l'autore, lo Stato moralmente legittimo è un'impossibilità logica. Il libro fece fin dall'inizio molto discutere, suscitando contrasti e consensi sia a destra che a sinistra, e Wolf ha deciso di riproporlo proprio alla luce di questa sfiducia crescente nello Stato e nella sua pretesa di autorità legittima che egli vede appunto maturare nella società americana. A parte gli estremismi, scrive infatti, una completa sfiducia nell'autorità costituita sembra essere diventata uno dei pezzi forti della cultura popolare, trasversale allo spettro politico, e non tiene conto qui Wolf ancora del fenomeno populista. Il libro, scritto con tono divulgativo, esamina il concetto di autorità, quello di autonomia, ripropone il dibattito fra responsabilità e rinuncia ad esercitare la propria libertà d'azione, mette in discussione il modello della democrazia classica nelle sue varie espressioni e invita infine ad andare al di là dello Stato legittimo che sostanzialmente mortifica e impedisce l'espressione dell'autonomia individuale. Quindi Wolf conclude invocando quello che egli stesso definisce un modello utopico, ossia quello di un mondo senza stati. Un'espressione dello spirito individualistico americano, naturalmente, è Moby Dick, il cui autore Herman Melville è protagonista dell'omonimo romanzo di Jean Giono, il noto scrittore francese, morto proprio 50 anni fa, pubblicato da Guanda e tradotto da Leila Botté, 144 pagine, 16 euro. Nel 1936 Giono fu incaricato con Lucien Jacques di tradurre in francese Moby Dick, impresa che concluse 3 anni dopo, ma il libro già da tempo aveva affascinato Giono, era diventato, come scrive, il suo compagno straniero, e nel completare la traduzione Melville diventa a sua volta protagonista, prima della prefazione alla versione di Moby Dick e poi di questo libro, che non è una semplice biografia, ma anche saggio filosofico e romanzo, e dunque opera di fantasia. E sentiamo da questo libro come Melville ricordi l'ispirazione che ebbe per il suo capolavoro, richiamandosi anche alle passeggiate con un suo grande amico scrittore. Del suo amico Nathaniel Hawthorne ha un'ammirazione spassionata. Insieme vanno per sentieri e per prati. Sto per iniziare un lavoro. A proposito di certe riflessioni, in questi ultimi giorni mi sono ricordato di una curiosa storia su una balena. Intorno al 1810 era sotto vento rispetto all'isola di Mocha sulla costa del Cile. La attaccarono più di 100 volte e più di 100 volte fu vittoriosa. Si può anche dire che mise in fuga, è il termine esatto, mise in fuga 3 baleniere inglesi, saltandogli addosso nel momento in cui si ritiravano. E saltandogli addosso usciva dall'acqua fino all'altezza delle ringhiere. Divenne subito celebre, non si poteva addoppiare il capo Horn senza aver voglia di darle la caccia. Per via dell'età, o forse per una stranezza della natura, era bianca come la neve. Vista da lontano, non si poteva mai sapere se era lei o una nuvola adagiata all'orizzonte. E ogni volta che incontravamo qualcuno in alto mare gli gridavamo «Ehi, hai notizie di Mocha Dick?» Ebbene, tutto ciò mi è tornato in mente, non so come. Questa cosa irrealizzabile, capite? Qualche mese più tardi gli dirà «Sì, ci sto lavorando». Deve averlo scritto anche ad Adelina. Deve essere stato nell'ebbrezza dell'inizio del lavoro. Era inebriato dalla nuova storia. Lei ha ricevuto una lettera epica e gli ha risposto «Ai miei occhi siete, con la vostra resistenza da gigante, l'immagine stessa della lotta e della vittoria». E Moby Dick che possiamo leggere nell'edizione Einaudi tradotta da Ottavio Fatica, 696 pagine, 14 euro. Poi c'è un'edizione illustrata di Toeffler, sceneggiata da MM, illustrata da Brucio, 96 pagine, 16 euro. E c'è un'edizione a fumetti di Mondadori di Christian Chabutet, tradotto da Paola Checcoli, 256 pagine, 22 euro. E ci sono poi le edizioni per ragazzi, quella di Gerolamo Stilton, quella Oscar Junior, 864 pagine, 13 euro, tradotto da Cesarina Minoli, e un'edizione EL illustrata da Silvia Campanella, 30 pagine, 4,90 euro. Una vita altrettanto avventurosa fu quella di uno scrittore viaggiatore inglese, Richard Francis Burton, nato a Torquay nel 1821 e morto a Trieste nel 1890, protagonista di una vita avventurosa che diventa addirittura un romanzo nel libro di Ilya Trojanov, uno scrittore bulgaro esiliato politico in Germania, anche egli girovago, ha vissuto a Nairobi, Parigi, Monaco di Baviera, Mumbai, Città del Capo e oggi risiede a Vienna, autore del Collezionista di Mondi, un bestseller che ha avuto un grande successo all'estero e pubblicato in Italia da EDT, e tradotto da Umberto Gandini, 480 pagine, 22 euro. Burton fu un personaggio, come vi dicevo, avventuroso ed enigmatico. un grande viaggiatore, diplomatico, spia, traduttore, noto anche per essere stato uno dei migliori spadaccini, forse fra i primi tre del suo tempo. E tra l'altro, come traduttore, aveva popolarizzato, aveva tradotto per la prima volta il Kama Sutra e le Mille e una Notte. Ma fu soprattutto un viaggiatore sui generis, che si calava a tal punto nella cultura degli stranieri da essere stato tra i primissimi occidentali a compiere il viaggio alla Mecca, che allora era assolutamente interdetto agli fedeli, grazie alla capacità di apparire come un perfetto musulmano. Insomma, un personaggio affascinante di cui Trojanov ci presenta le gesta nelle tre principali aree di interesse di Barton: l'India britannica, l'Arabia e l'Africa orientale. Questo non è un romanzo di viaggi, ma di immersioni in culture lontane. In India, per esempio, Barton arriva come ufficiale e, per vincere la noia della guarnigione, studia il sanscrito prima di compiere una delicata missione. In Arabia rievoca appunto l'impresa di cui parlato, in Africa orientale assiste al commercio degli schiavi ed esplora le sorgenti del Nilo. E al termine del libro, commentando questa figura, un vescovo triestino, appunto, che l'aveva conosciuta, lo ricorda così, dialogando col prete che aveva presentato a Barton: ha almeno cercato Dio? Assolutamente, e come la maggior parte degli uomini lo aveva raramente trovato. Aveva un punto di vista inconsueto sul problema. Nessun uomo incontrerà veramente Dio, mi ha spiegato una volta durante una cena di gala, perché che cosa accadrebbe? La sua personalità si dissolverebbe, si fonderebbe in Dio. Fine dell'io, fine del tempo. Passerebbe nell'eternità. Chi mai vorrebbe rimanere uomo se potesse essere Dio? Logica notevole, vero? Che conseguenze ne traeva? Che noi vogliamo cercare naturalmente, ma che non troviamo in nessun caso. Appunto questo aveva fatto per tutta la sua vita, ha detto. Lui aveva cercato ovunque, mentre la maggior parte degli uomini si limiterebbe a guardare sempre nella stessa pentola. E poi mi ha fissato con spavalderia, e un po' maliziosamente, devo dire. Lei insiste nel dire che era un cattolico? Diciamo così. Era un cattolico onorario. Un grande studioso di civiltà remote, questo italiano e famoso in tutto il mondo, è Giuseppe Tucci, al quale è dedicata la biografia scritta da Alice Crisanti, che è una studiosa all'Istituto per gli Studi Storici di Napoli, pubblicato da Unicopli, 500 pagine, 29 euro. Anche questo è un personaggio affascinante, vissuto tra il 1894 e il 1984, uno dei più celebri orientalisti del suo tempo. Un protagonista forse un po' trascurato della cultura italiana del Novecento. Questo era Giuseppe Tucci. Crisanti ha studiato attentamente le carte d'archivio, comprese quelle che riguardano forse l'aspetto più discusso della sua esperienza, e cioè il rapporto col fascismo. Ci sono per esempio le carte qui presentate sul procedimento di epurazione cui Tucci fu sottoposto dopo il fascismo e dal quale fu scagionata, cosa che gli consentì di riprendere il ruolo universitario e le spedizioni, tra cui l'ultima che avvenne in Tibet nel 1948, una spedizione importante che fu organizzata grazie anche all'attenzione e all'appoggio della politica, in particolare di un leader importante dell'epoca come Giulio Andreotti. Seguirono poi altre spedizioni, per esempio in Nepal, per approfondire la conoscenza dell'arte gandharica, dopo i risultati ottenuti nello studio dell'arte islamica, preislamica, afghana, eccetera. Naturalmente, scrive Crisanti, il rapporto col fascismo c'era stato, si parla qui di palese compromissione tra le istanze politiche e la vita di Tucci, e quindi l'autrice cerca di chiarire gli aspetti sostanziali che segnano la distanza dello studioso dal fascismo e dalla sua ideologia, a partire dal concetto caro a Tucci di Eurasia, basato sulla convinzione dell'esistenza di un'intima unità del genere umano. E a questi studi sulle culture orientali Tucci avrebbe continuato a dare un contributo fondamentale, anche attraverso l'attività dell'ISMEO, l'istituto che aveva fondato nel 1933. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato a lungo della civiltà letteraria inglese e allora ricordiamo il 90° anniversario della morte di un altro mito letterario britannico, Arthur Conan Doyle, che cade martedì. Vi segnalo due libri molto famosi, Il segno dei quattro, tradotto da Sara Lurasco, e Uno studio in rosso, tradotto da Alice Cominetti per De Agostini, 304 pagine, 7,90 €. Gli stessi titoli troviamo nelle edizioni Il segno dei quattro è tradotto da Arianna Bellucci, l'altro è Lo studio in rosso, adattato da Stephanie Baudet, illustrato da Arianna Bellucci. 192 pagine, 10,90 €. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.